Focus Economia. Con Simone Spezia. Cari ascoltatrici, cari ascoltatori, buonasera e benvenuti a questa nuova puntata di Focus Economia. 349-238-6666 per i vostri sms e per i messaggi su WhatsApp, i temi di oggi. Ci tocca tornare sul Monte dei Paschi di Siena. Lo dobbiamo fare perché le indiscrezioni di queste ultime ore, anche se la banca ha comunicato che non è ancora arrivata la conferma definitiva, le indiscrezioni di queste ultime ore dicono che la Banca Centrale Europea abbia rifiutato la richiesta del Monte dei Paschi di una proroga dei tempi per l'aumento di capitale. Aveva chiesto il Monte dei Paschi 20 giorni in più proprio a causa della crisi politica generata dal no al referendum e dalle dimissioni del Presidente del Consiglio. Per ora appunto è solamente un'indiscrezione, si attende che la Banca Centrale Europea comunichi questa decisione al Monte dei Paschi. Fatto sta che dopo due giorni in risalita, dopo una giornata, quella di oggi, nella quale lo stesso Monte dei Paschi è stato in lieve calo, oscillato tra un mezzo punto percentuale di calo, un punto, due punti, in questo momento c'è dell'8,62%, e appena la notizia è diventata, pur, lo ripeto, sempre sotto forma di indiscrezione, ma indiscrezione evidentemente alla quale i mercati credono molto, e che era stata già una notizia che era stata già paventata dal Sole 24 Ore nelle scorse ore, il calo è stato nettissimo, non ha fatto prezzo, arrivata a perdere un 16%, adesso cede l'8,5%, portandosi dietro tutto il settore bancario: Banco Popolare meno 3,16%, Popolare di Milano altrettanto, Mediobanca meno 2,62%, Banca Mediolanum meno 2,93%, Unicredit meno 2,5%, Ubibanca meno 2,04%, e trascinandosi al ribasso, insieme con, a causa proprio del calo del settore bancario, anche l'Isino Milanese, con il FTSE MIB che cede mezzo punto percentuale, altrettanto il FTSE All Share, in un quadro complessivamente positivo in realtà per le altre borse europee. Parigi guadagna lo 0,86%, Francoforte lo 0,44%, Londra lo 0,25% e l'America è positiva con il Dow Jones che guadagna lo 0,25%, nello Standard & Poor's lo 0,3%. Parleremo di questo, parleremo della notizia in sé, evidentemente parleremo di quali possono essere le prospettive a questo punto, perché ci vorrà a questo punto l'intervento dello Stato e vedremo in quale forme si può concretizzare, ma soprattutto vedremo di capire quali possano essere le conseguenze, perché ci saranno presumibilmente delle conseguenze non solamente per il Monte dei Paschi, ma la cosa potrebbe avere un peso a seconda delle forme che prenderà appunto questo aiuto di Stato, questo intervento di Stato, potrebbe avere effetti in assoluto un po' su tutto il sistema bancario. Ricordiamo sempre che stiamo parlando della terza banca del paese. Già abbiamo risposto l'altro ieri agli ascoltatori che ci dicevano: ma insomma, bisogna farla fallire, se fate fallire la terza banca del paese si creano problemi per tutti, e quindi bisogna maneggiare queste cose con una certa attenzione. A questo punto tutti reclamano l'intervento dello Stato, lo ha fatto pochi istanti fa, dico a livello politico, l'ha fatto pochi istanti fa anche il Movimento 5 Stelle, dicendo in un post sul blog di Grillo, dicendo altrimenti sarebbe un disastro. Storie che ritornano, quella del Monte dei Paschi che ci trasciniamo dietro da anni, così come ci trasciniamo dietro da anni la vicenda di Alitalia, e sarà questo l'altro tema che toccheremo oggi. All'Italia che potrebbe arrivare ad una perdita superiore ai 400 milioni di euro alla fine dell'anno, secondo alcune fonti finanziarie entro la fine della settimana non avrà più cassa, e per ora Unicredit e Intesa San Paolo non autorizzano nuove linee di credito. Si sta tentando di raggiungere un'intesa che permetta di dar via al rafforzamento patrimoniale. Oggi summit tra il presidente della compagnia, Luca Cordero di Montezemolo, il responsabile finanziario e appunto i rappresentanti delle banche, tra cui Unicredit e Intesa San Paolo, che sono i principali creditori e azionisti della compagnia. Qua c'è un problema, il problema è che Etihad, che è il socio forte, non può ricapitalizzare da solo perché salirebbe sopra il 50%, e dato che è un soggetto extraeuropeo farebbe perdere ad Alitalia i diritti di volo e quindi non sarebbe più sostanzialmente una compagnia aerea, almeno qua in Europa. Infine, l'ultimo tema che toccheremo è un tema che riguarda l'auto. Oggi in parte era stato già preannunciato da Marchionne nelle settimane scorse, ma un po' sotto traccia. Oggi è stato detto abbastanza chiaramente che le sue novità, la sua vera grande novità, Fiat Chrysler, non la presenterà al Salone di Detroit, ma la presenterà 5 giorni prima al Consumer and Electronics Show di Las Vegas. È uno snodo importante e riguarda un po' tutte le case automobilistiche. Vi dico solamente se volete avere un'impressione, fate caso a come sono cambiate anche solo le pubblicità delle auto negli ultimi 10 anni, dove 10 anni fa ci parlavano del motore, solamente del motore, della sicurezza, e adesso ci parlano soprattutto di quanto queste auto sono connesse, dei sistemi di guida automatica e via dicendo. Vuol dire che appunto il mercato dell'auto sta radicalmente cambiando. Ne sono un esempio gli accordi che stanno facendo le case automobilistiche con i grandi della Silicon Valley, ma appunto un segnale di questo tipo è molto forte. Tanto che vi dico, quando parliamo con i colleghi anche del Sole 24 Ore che si occupano di queste cose, ci dicono esattamente questo, ci dicono che si occupano di auto, ci dicono: guardate che noi andiamo certo anche a Detroit perché è importante per il settore del quale ci occupiamo, e però andiamo anche al CES di Las Vegas perché è uno snodo fondamentale a questo punto, e vedremo di tracciare un po', no, quale può essere la traiettoria di tutto questo tra le self-driving car e tutto il resto e i sistemi di guida più o meno automatica. Questo è quanto. 349-238-6666 per i vostri sms e i messaggi su WhatsApp. Le notizie in breve di oggi. Oh, lo dico all'ascoltatore che già scrive: basta, rivogliamo Sebastiano. Non vi preoccupate, Sebastiano torna lunedì. Infatti un po' mi dispiace avervi fatto mancare la classifica degli sprechi della settimana. Appuntamento fisso il venerdì, ma c'è anche il ponte, sono giorni particolari, dai. Oro in calo dello 0,8% a $1,160 l'oncia, il petrolio in risalita invece, WTI con consegna a gennaio, quello quotato a New York, in crescita dell'1,08% a $51,3 al barile, il Brent invece, quello quotato a Londra, quello del Mare del Nord, con consegna a febbraio, in risalita dello 0,32%, siamo sopra i $54 al barile. A proposito di petrolio, alla vigilia dell'incontro di domani a Vienna fra i paesi OPEC e non OPEC sull'attuazione dell'accordo sul taglio della produzione, una fonte della delegazione russa ha avanzato l'ipotesi che il summit possa essere rinviato perché permangono differenze che vanno approfondite. E sempre a proposito di petrolio, e sempre a proposito di Russia, il primo ministro russo Dmitry Medvedev ha detto che la privatizzazione di Bashneft e Rosneft porterà più di 1.000 miliardi di rubli, ossia quasi $16 miliardi, nelle casse della Federazione Russa. Sempre sul fronte dell'economia internazionale abbiamo notizie che arrivano dalla Cina. Questo è un fronte interessante perché riguarda rapporti in realtà che hanno più a che fare con la geopolitica. La Fujian Grand Chip Investment Fund, il fondo Fujian Grand Chip, ha ritirato l'offerta da 670 milioni di euro per il controllo di Aixtron. Aixtron è un'azienda tedesca, ma è un'azienda che si occupa anche di prodotti e tecnologie che hanno applicazioni militari. Ebbene, sia la Germania sia gli Stati Uniti gli hanno detto no, non si può fare. La Cina ha criticato la vicenda, ha accusato le parti di politicizzazione di operazioni puramente commerciali, però si tratta di dare in mano di fatto quelli che sono dei tuoi segreti militari ai cinesi, insomma. Siamo alle cronache della Brexit. La Gran Bretagna è pronta a far concorrenza agli altri paesi europei tagliando le tasse per le imprese qualora venisse adottato da Bruxelles un atteggiamento ostile nel corso dei negoziati. Lo ha detto il ministro che coordina il processo di uscita del Regno Unito dall'Unione Europea, il ministro alla Brexit, David Davis, in un incontro privato con la City of London Corporation, un ente che governa il quartiere finanziario londinese di cui il Financial Times ha pubblicato alcuni estratti. Ed è interessante anche questo, è interessante che le imprese, sia le banche abbiano chiesto al governo un'uscita più morbida in una serie di step. Le grandi banche d'affari, secondo un documento messo a punto e visionato da Reuters che ha riportato la notizia, le banche attive nel Regno Unito stanno facendo pressione sull'esecutivo per rimanere soggette alle leggi dell'Unione Europea per ancora 5 anni dopo il divorzio del paese dall'Unione Europea, posto naturalmente che Bruxelles glielo consenta, perché poi il punto è anche questo. Detto ciò, quasi a rispondere, ma in un incontro che precede queste indiscrezioni, lo stesso Davis ha gelato la City di Londra. Si è detto non interessato ad un accordo transitorio per evitare possibili effetti negativi, come hanno chiesto le stesse imprese britanniche. Fronte della Banca Centrale Europea delle decisioni di ieri. Il membro francese del board della BCE corre e dice che l'estensione del quantitative easing deciso ieri è una forma di avvertimento sul fatto che questo stimolo monetario senza precedenti non durerà per sempre. E poi ci sono i nostri cari amici tedeschi. Già ieri, tramite la Frankfurter Allgemeine Zeitung, avevamo saputo che il governatore della Bundesbank, Weidmann, si era dichiarato contrario all'estensione dell'acquisto di titoli. Oggi praticamente tutta la stampa tedesca schierata brutalmente. La Frankfurter Allgemeine Zeitung firma un pezzo, un commento in prima pagina che si intitola BCE politicizzata. La FAZ, e questo è un fatto curioso, però ne abbiamo parlato già un'altra volta, in realtà il tema della politica monetaria interessa davvero gli elettori tedeschi, però la FAZ dice che la politica monetaria espansiva è alla base della rabbia di molti elettori in Europa, per la distorsione dei trattati. Sento di dubitare che la rabbia degli elettori sia per la distorsione dei trattati da parte della Banca Centrale Europea, in tutta sincerità, un po' fortina. Pesante anche la Süddeutsche Zeitung, che dice un po' di meno è troppo poco, ne mette subito in relazione la scelta di Draghi con la crisi italiana. Dice per la reazione più rilassata delle borse va ringraziato un italiano che non siede a Roma ma a Francoforte, quindi con l'insinuazione meno troppo velata che l'abbia fatto per dare una mano all'Italia. E ancora la Bild, tassi allo zero, gli stupidi siamo di nuovo noi risparmiatori. Per quanto ancora, signor Draghi? A questo sono dedicati 100 secondi di Radio 24, il Sole 24 Ore, oggi a firma del vice direttore del Sole 24 Ore, Salvatore Padula. I 100 secondi di Radio 24, il Sole 24 Ore. Con Salvatore Padula. Il fronte bancario è sempre più incandescente. In primo luogo, la vigilanza della BCE avrebbe respinto oggi la richiesta del Monte dei Paschi di Siena di avere 20 giorni di tempo in più per l'aumento di capitale, che quindi, se la notizia verrà confermata, dovrà essere chiuso entro il 31 dicembre. Il mancato via libera alla proroga, che ha subito determinato il crollo del titolo in borsa, farà decadere probabilmente il piano di ricapitalizzazione e aprirà la strada all'intervento dello Stato per salvare la banca attraverso un decreto legge che potrebbe arrivare già nel fine settimana. In secondo luogo vanno registrate le polemiche sulla decisione della BCE di prolungare il quantitative easing, cioè l'acquisto di titoli, per altri 9 mesi rispetto al termine previsto, che era marzo 2017. Una scelta che ha provocato forti e pesanti critiche in Germania, dove il programma di acquisti è sotto accusa perché minaccerebbe la stabilità finanziaria dell'Eurozona. I critici tedeschi sostengono che il programma di acquisti della BCE ha anche l'effetto di tenere i tassi a livelli minimi, spesso in realtà sono sotto zero, con un onere pesante per gli utili e per la capitalizzazione delle banche europee. Naturalmente ci sono anche valutazioni di tipo politico. Alcuni osservatori in Germania sostengono che la scelta della BCE favorisca il successo dei movimenti populisti e diventi un favore per alcuni paesi, tra i quali anche l'Italia, accusa dalla quale proprio ieri si era difeso lo stesso Mario Draghi. Seguici dal lunedì al venerdì su Radio 24 e RDS e in video su radio24.it e rds.it. Chissà quanto e se ha influito nella decisione della Banca Centrale Europea di non concedere la proroga al Monte dei Paschi il fatto che Draghi non volesse sembrare troppo filo italiano. Probabilmente nulla in realtà. Luca Davide, il Sole 24 Ore, ciao. Ciao, buongiorno a tutti. Probabilmente nulla, probabilmente viene da dire poco, nel senso che la sensazione è che si voglia comunque tenere le cosiddette muraglie cinesi tra quella che è la vigilanza della BCE e invece l'autorità monetaria, che insomma ha come prerogativa quella del controllo appunto del tasso di inflazione. Quello che sicuramente è interessante da analizzare forse sono le ragioni che stanno dietro alla scelta della vigilanza BCE di non concedere la proroga a MPS, questi 20 giorni che sembra non avrebbero forse cambiato molto, no, ai fini della ricapitalizzazione, o forse sì. La sensazione è che la BCE abbia tolto le castagne dal fuoco. Le abbia tolte agli advisor, le abbia tolte alla banca stessa. Perché? Perché negli ultimi giorni, in quest'ultima settimana, era emerso con chiarezza che gli investitori privati, che inizialmente sembravano disposti a entrare nel capitale della banca, alla luce del risultato del referendum, alla luce delle dimissioni di Matteo Renzi e quindi del caos politico che si è generato, a quel punto forse si sono tirati indietro. Era difficile ammettere che l'intero progetto di ricapitalizzazione con capitali privati fosse quindi, come dire, da dichiarare defunto. A questo punto la BCE è intervenuta, ha detto no, a questo punto dovete fare questo aumento di capitale perché da troppo tempo che questa banca è in difficoltà, e questo quindi spalanca le porte a un intervento forte di nazionalizzazione. Il punto adesso è come verrà effettuato. Perché adesso il nodo è capire cosa farà il governo, questo o il futuro. E questo è esattamente il punto. Di fatto la Banca Centrale Europea ha tolto qualsiasi alibi e, come dire, anche fermato l'incertezza, se vogliamo, perché abbiamo visto anche sui mercati come è andato Monte dei Paschi in questa settimana, no? Fortissime oscillazioni, chissà che cosa sarebbe potuto succedere nelle prossime settimane, nei prossimi 20 giorni. probabilmente è una volatilità che fa il paio con proprio il clima di incertezza che fino ad oggi si è respirato proprio sulla banca. Una volatilità che abbiamo visto anche oggi in borsa, non appena si è diffusa la notizia del no, che però in qualche modo era già ventilato, insomma noi anche ne abbiamo scritto in questi giorni, l'ipotesi era concreta che la vigilanza mettesse, come dire, aprisse la ghigliottina sulla intera vicenda. A questo punto cosa c'è da attendersi? C'è da attendersi probabilmente un provvedimento da parte del governo che appunto metterà, agevolerà un intervento di ricapitalizzazione ad opera dello Stato che potrebbe prevedere da una parte una conversione in azioni. Allora, io ti fermerei su questo, sì. Luca, perché ci prendiamo un attimo una pausa. C'è il metodo, certo. Perché poi c'è già qualche ascoltatore che inizia a chiedere, giustamente, che fine fa la mia obbligazione subordinata MPS? Anche di questo parliamo tra un attimo. State ascoltando un programma offerto da SwissQuote.it, un leader globale nel trading sul Forex. Focus Economia. Intanto ci ha raggiunto anche il professor Luigi Zingales, docente di finanza all'Università Chicago Booth School of Business, editorialista del Sole 24 Ore. Professor Zingales, buonasera, bentornato ai nostri microfoni. Buonasera. Buonasera. Adesso arriviamo da lei subito, però intanto Luca Davi, eravamo rimasti in sospeso, Luca, su come si potrebbe concretizzare questo intervento dello Stato che a questo punto appare inevitabile. Appare inevitabile, sì, è l'unica soluzione che sembra essere ormai in campo. Quale forma potrebbe prendere, diciamo? Quello che si sta studiando in seno al MEF è sostanzialmente una cosiddetta ricapitalizzazione precauzionale, un termine un pochettino tecnico, ma sostanzialmente nelle pieghe della direttiva BRRD, che è quella relativa al bail-in, c'è una possibilità sostanzialmente di salvare le banche in difficoltà, mettendo in sicurezza anzitutto gli obbligazionisti di bond non rischiosi e i correntisti, che quindi comunque non rischiano, ma di coinvolgere i detentori di bond subordinati, trasformando quindi quegli strumenti in azioni. Qua il tema è ovviamente questi 4 miliardi di bond istituzionali, di bond che sono in mano prevalentemente agli istituzionali, ma sono in mano anche al retail, come in qualche modo salvaguardare quelli che appunto sono i bond in mano ai correntisti. Ci sono circa 40.000 persone in Italia che sono coloro che hanno comprato questi bond direttamente allo sportello e che sono serviti poi al finanziamento dell'operazione su Anton Veneta di MPS. Bene, si sta quindi studiando un meccanismo di ristoro o comunque di ridimensionamento delle perdite per questi soggetti a cui in qualche modo in maniera scellerata negli anni precedenti sono stati venduti questi bond a persone che sicuramente non avevano tutte le carte in regola per comprare, non avevano tutta la consapevolezza ovviamente sufficiente per comprare questo tipo di strumenti che sono sicuramente rischiosi. Quindi da una parte conversione dei bond in mano agli istituzionali e per il retail invece si sta ragionando sul da farsi. Professore, un'operazione di questo genere, secondo lei, non è a effetto zero anche per l'impatto in termini di fiducia che può avere sugli investitori e sui risparmiatori? Cosa vuol dire effetto zero? Da che punto di vista? No, dico, non ha un effetto zero, dico anche un'operazione di questo genere, che è un'operazione di fatto di salvataggio dello Stato, pur con questa modalità, può avere un effetto importante, dico in assoluto, anche sul sistema bancario, perché potrebbe generare sfiducia tra risparmiatori e investitori o no, secondo lei? Beh, innanzitutto, secondo me, quello che genera sfiducia è il fatto che ci troviamo adesso, all'ultimo momento, a pensare a un piano B. Nel senso, questo non era un'eventualità remota. Ormai da mesi si diceva che il no vincesse il referendum, quindi ci doveva essere un piano B pronto da entrare il giorno dopo. E l'idea di chiedere un ritardo alla BCE, secondo me, era un'idea disperata. La BCE non doveva e non avrebbe mai dovuto concedere un'estensione. Quindi, innanzitutto nasce la sfiducia del fatto che si capisce che non c'è una regia coordinata. Una vicenda, secondo, non gestita, sostanzialmente, professore. o molto male. Rimandata, sì, ma rimandata all'ultimo momento e non pensata profondamente. Secondo, bisogna vedere come questo intervento avviene. Secondo me il modo migliore che avvenga attraverso dei rimborsi ex post invece che un acquisto ex ante, perché l'acquisto ex ante inevitabilmente premierebbe tutti coloro che hanno comprato magari su informazioni all'ultimo momento i famosi subordinati. Il terzo è ovviamente l'impatto che questo avrà sulle altre banche e sulla capacità ad esempio di Unicredit di raccogliere il capitale necessario. Purtroppo è da un anno che io vado dicendo che è una crisi sistemica, che questo va affrontato in maniera sistemica, ed è da un anno che il governo fa lo struzzo e non vede questo problema e cerca di risolvere un problema alla volta senza capire che si tratta di un problema sistemico. Senta professore, vorrei capire da lei come secondo lei andrebbe affrontata a livello sistemico, ammesso che siamo ancora in tempo, ma prima vi faccio rispondere a qualche ascoltatore. Luca Davi lo ha spiegato molto bene: nelle more della direttiva sul bail-in c'è la possibilità di intervenire nel salvataggio di una banca delle dimensioni del Monte dei Paschi di Siena, perché il fallimento e il bail-in di una banca come il Monte Paschi di Siena, che è la terza banca del paese, avrebbe degli effetti sistemici sicuramente a livello italiano e chissà se non a livello europeo. Professore, la soluzione di sistema che indicherebbe lei qual è? Ma io l'ho scritto molte volte sulle pagine del Sole 24 Ore, una specie di TARP all'italiana. TARP è il programma disegnato negli Stati Uniti durante la crisi, e quindi è un'immissione generalizzata di capitale azionario in tutte le banche, e con la prospettiva per le banche di riacquistare questo capitale immesso se sono solide, e invece se non sono solide questo capitale diventa il nuovo capitale azionario e quindi prende controllo della banca. Questo si può fare o con i soldi italiani o con i soldi dell'ISM secondo le direttive del bail-in quando si invoca una crisi sistemica. Ormai è difficile dire che l'Italia non è sistemica, a meno che l'unica cosa sistemica sia la Germania, allora è un altro paio di maniche, ma a me sembra che in Italia sicuramente questa è una crisi sistemica e secondo me va affrontata come tale, cioè in maniera da prevenire i problemi e non da rincorrerli, perché sennò si continuano e propagano come una valanga. Intervento dell'ISM che, come dire, metterebbe l'Italia quasi inevitabilmente, glielo dico professore, o meglio glielo chiedo, sotto il cappello, non dico della Troica, ma quasi, e forse il tema è anche questo, o no? Diciamo, tutti i governi cercano di evitare questo costo politico, ma guardiamo la Spagna l'ha fatto e ha risanato il problema bancario ed oggi cresce al 3% l'anno. Quindi secondo me non voler pagare questo costo politico costa al paese un'enormità. Il suo punto è molto chiaro, io la ringrazio, grazie al professor Luigi Zingales, docente di finanza all'Università Chicago Booth School of Business e editorialista del Sole 24 Ore, grazie per averci concesso il suo tempo, e noi restiamo invece con Luca Davi del Sole 24 Ore, perché qua insomma gli ascoltatori iniziano, no, a fare qualche domanda. Innanzitutto, perché Monte dei Paschi sì e le altre no? Beh, in parte l'abbiamo spiegato anche due giorni fa, se volete riascoltare la puntata di Focus Economia, perché, come abbiamo detto pochi istanti fa, la dimensione è sistemica di Monte dei Paschi, no? Questo sicuramente è il primo problema, c'è un problema emergenziale, come dire, no? È il primo problema in agenda, la banca deve ricapitalizzarsi entro fine anno. Ci sono sicuramente altre situazioni critiche sul sistema bancario italiano, ci sono le banche venete che devono essere ricapitalizzate e lo saranno probabilmente nei prossimi mesi, ci sono banche un pochettino più piccole, ci sono piccolissime banche che però sono all'esame ad esempio di possibili acquirenti, faccio l'esempio di UBI sulle cosiddette tre good banks regionali. Insomma, il mercato composito, non è escluso che il governo stia ragionando a un pacchetto dibattito ad ampio respiro sul sistema appunto bancario, così da trovare una soluzione che mette in sicurezza attraverso una rete di protezione proprio l'intero sistema. È più realistico però che intanto si proceda, anche alla luce di un quadro politico che vedremo che cosa consentirà di fare, si proceda per piccoli passi. Sì, anche perché fare un decreto, dal punto di vista politico, fare un decreto di questo tipo per un governo dimissionario è difficile. Non a caso alcune fonti insomma che abbiamo interpellato sostengono che probabilmente si possa andare alla settimana prossima, comunque che la decisione possa essere presa dal futuro governo che entrerà in carica, a cui toccherà sostanzialmente prendersi le responsabilità. Vedremo cosa succederà, perché molto dipende anche dalla dialettica politica. Due precisazioni forse anche che possono aiutare gli ascoltatori e ovviamente chi ha investito in MPS, in particolare in questi bond, in un bond che è quello appunto con scadenza 2018, insomma è il bond di cui si fa un gran parlare. Ad essere potenzialmente rimborsati non dovrebbero essere tutti i bond in mano al retail, dovrebbe essere solamente i bond venduti direttamente dallo sportello all'investitore. È evidente che chi ha fatto gioco di speculazione magari l'ha comprato ieri perché sperando in un rimborso a 100 forse non rimarrà un po' deluso, viene da pensare. Detto questo, le conseguenze sul mercato di quella che è appunto un'operazione di salvataggio, che è importante nel breve termine per mettere in sicurezza la banca. È fuori discussione che un intervento come questo, sicuramente auspicabile, ma produrrà dei costi nel medio-lungo termine. Il primo dei quali potrebbe essere anzitutto quello di rendere più costoso l'approvvigionamento e quindi come le banche si finanziano sul mercato. Se gli investitori istituzionali vedranno trasformarsi i bond subordinati in azione, è evidente che al prossimo giro ci penseranno due volte prima di reinvestire, o comunque chiederanno un tasso più alto per poter entrare nei bond, e quindi evidentemente i maggiori costi in termini di raccolta delle banche inevitabilmente si trasferiranno poi su come e sui prezzi degli impieghi, quindi sui prezzi dei prestiti, e questo inevitabilmente a cascata finirà sulle imprese e sulle famiglie. Quindi non pensiamo che tutto questo ovviamente sia costo zero. L'altro elemento invece più di breve respiro è quello di Unicredit, che questo è l'altro grandissimo dossier sul tavolo. Unicredit deve fare un aumento di capitale, lo dovrà fare a breve, sono 13 miliardi. Chissà cosa potrebbe accadere, è possibile che in qualche modo la banca ce la possa fare da sola. Dovremo vedere nei prossimi giorni come anche si assisterà il mercato attorno all'intera operazione MPS. Anche perché le due banche, ricordiamolo, sono molto differenti per condizioni finanziarie. Però il clima è importante. Il clima è importante e così rispondiamo con il clima anche all'ascoltatore, ne abbiamo già parlato prima ma ve lo ripeto, perché il salvataggio di MPS salta fuori solo dopo il referendum, esattamente per il risultato del referendum e per le sue conseguenze politiche, ossia le decisioni del governo di lasciare, di Renzi, di dimettersi. L'instabilità politica allontana gli investitori esteri, alcuni investitori esteri che erano intenzionati a partecipare all'aumento di capitale del Monte dei Paschi di Siena. Dunque non c'è nessuno disposto a partecipare all'aumento di capitale del Monte dei Paschi di Siena, dunque interviene il governo per evitare che la crisi diventi, come dire, si allarghi da Monte dei Paschi ad altre banche, proprio per la dimensione che ha il Monte dei Paschi. Speriamo di aver chiarito tutto, almeno per il momento, in attesa di vedere quali saranno le evoluzioni politiche. Tra un attimo vedremo quali sono state quelle, almeno di oggi, dei mercati. E grazie a Luca Davi del Sole 24 Ore. Buonasera Luca. Grazie a voi. Traffico. Focus Economia. Non abbiamo mai detto che avrebbe dovuto vincere il sì perché le banche si salvassero. Abbiamo semplicemente detto che tutte le cose hanno delle conseguenze. E in questo caso non parliamo della vittoria del no o del sì, ma parliamo delle dimissioni del governo. Cioè, non è il punto di chi ha vinto il referendum costituzionale, è il fatto che il governo dopo si è dimesso. E quindi l'instabilità politica tende ad allontanare alcuni investitori internazionali, non tutti poi, a dire il vero. Però in questo caso quelli che volevano investire in MPS hanno deciso di allontanarsi. E il tema è esattamente questo. Quindi non è un rodimento perché ha vinto il no. Insomma, è semplicemente quello che è successo. Sono i fatti. lo dico ovviamente a un ascoltatore che ci scrive, sempre 349-238-6666 per sms e messaggi su WhatsApp. Dunque la borsa, borsa che ovviamente tiene conto di tutto questo. Se considerate Monte dei Paschi chiude con un calo del 10,5%. Andrea Fontana, Radio Cori, il Sole 24 Ore, ciao, buonasera. Ciao, buonasera. Ancora banche, banche e ancora banche, no? Gli indici scendono dello 0,73%, il FTSE MIB dello 0,6%, il FTSE OSHARE, mentre sono positive le altre borse europee, no? Sì, sicuramente l'attesa era tutta per questo responso del supervisory board della BCE sulla richiesta del Monte dei Paschi. C'è da dire che sul settore bancario c'erano anche già in atto nella mattinata dei realizzi, vista l'ottima settimana con rialzi in doppia cifra per molti titoli, dopo con le ricoperture seguite all'esito del referendum. Certamente la decisione non ancora ufficiale, peraltro emersa solo dalle indiscrezioni della BCE, ha cambiato lo scenario e per la verità ha penalizzato solo il titolo Monte dei Paschi, non portando vendite consistenti sugli altri titoli del settore. Sì, Monte comunque Popolare Milano meno 4,3%, Banco Popolare meno 3,9%, Mediolanum meno 3,4% e giù oggi anche Unicredit, no? Meno 2,3%. Sì, Unicredit perdeva anche il 5% nell'immediata reazione istintiva della borsa alla notizia sul Monte dei Paschi. C'è da dire che oggi Unicredit ha dapprima annunciato un accordo con un grande gestore patrimoniale come PIMCO per la vendita di crediti immobiliari per 1,3 miliardi, ma soprattutto su Unicredit ormai siamo al conto alla rovescia per il piano industriale che sarà presentato il 13 dicembre, molti colpi, possiamo così dire, sono già arrivati, la vendita del pacchetto di riferimento della polacca Pekao, alcune dismissioni su Fineco ed è addirittura d'arrivo anche la cessione delle gestioni patrimoniali Pioneer, ma certo manca la visione di insieme del piano che sarà resa nota il 13 dicembre, questo però ha comunque permesso, diciamo, Unicredit in una giornata di flessione, diciamo, di limitare i danni a una perdita superiore al 2%, quindi non di essere tra le peggiori banche del listino. E questo per quanto riguarda appunto Unicredit. Abbiamo un forte calo tra, appunto, come si dice, Monte dei Paschi giù del 10,5%, Popolare Milano del 4,3% e poi troviamo Saipem che c'è del 4,2%. Sì, qui si tratta da una parte di realizzi perché il titolo in questi giorni era tornato ai massimi dal mese di febbraio sopra i 45 centesimi per azione, dall'altro canto anche da una delusione, da vendite derivanti da una notizia, ovvero dalla decisione di Gazprom di affidare al gruppo svizzero Allseas la posa della prima tratta del gasdotto per portare il gas nell'Europa occidentale passando dal Mar Nero, il cosiddetto Turkish Stream. Era un contratto che faceva gola a Saipem e anzi che molte indiscrezioni assegnavano a Saipem come posizione favorita per ottenere questo contratto. Il fatto che sia andata a un altro gruppo ha portato la delusione, chiaramente perché era una commessa importante, chi la giudicava con un valore tra 1 e 2 miliardi di dollari, quindi una commessa importante per, sì, il gruppo di servizi. Anche Leonardo Finmeccanica risente ancora di un problema simile, no? Per lo stesso motivo, sì, non per la commessa per la commessa del Mar Nero, sì, ma per una commessa in Canada, per una commessa del governo canadese su 16 aerei utilizzati in operazioni di ricerca e di soccorso. La commessa è andata ad Airbus, è la seconda volta in pochi mesi che Leonardo deve purtroppo far fronte con una commessa sempre in gara con Airbus mancata. Un mese fa era una commessa a 1 miliardo per elicotteri a Singapore e questa del governo canadese ha portato, sì, chiaramente delle vendite. Meno 2,8% in 10 secondi, Mediaset, che tra l'altro è il titolo migliore del listino, guadagna il 3,23%. Oggi grande effervescenza sul settore dei media. Spagna sia in Francia per le indiscrezioni di una vendita di Canal Plus, la Pay TV da Vivendi al gruppo telefonico Orange, sia in Inghilterra, dove Sky ha guadagnato il 30% perché il suo azionista 21 Century Fox potrebbe lanciare un'OPA per averne il controllo sì, totale, e il titolo ha guadagnato il 30%. Grazie dunque ad Andrea Fontana, Radio Cori, Il Sole 24 Ore. Ci fermiamo, c'è GR24 e poi ci ritroviamo per parlare di Alitalia e poi di settore auto. Vuoi andare all'estero per lavorare, studiare o semplicemente per cercare opportunità che in Italia non trovi? Le dritte giuste, i paesi giusti, i lavori giusti, ve li forniamo noi ogni sabato su Radio 24. Le storie di chi all'estero ce l'ha fatta e ci indica una strada da seguire. Sono Sergio Nava, vi aspetto tutti i sabati alle 13.30 con Giovani Talenti. Il segnale orario vi è offerto da Wafer-Lago. Wafer-Lago, dolci emozioni italiane. Roma-Napoli, in auto con un'amica, io, lei e il sistema digital radio. Accendiamo la radio? Hai detto radio? Te la faccio ascoltare in digital. Cioè? Sulla mia auto puoi ascoltare i programmi che ami di più con il suono perfetto, grazie alla digital radio. Ce l'ho anche a casa. Tu no? Se ami la radio, muoviti a provarla in digital, in auto e a casa. Digital radio. Il suono perfetto. DAB Plus. Anche Radio 24 è in digital radio. State ascoltando un programma offerto da SwissQuote.it, un leader globale nel trading sul Forex. Focus Economia. Ed eccoci di nuovo, seconda parte di Focus Economia. Di nuovo buonasera da Simone Spezia, 349-238-6666 per i vostri sms, per i messaggi su WhatsApp, per chi si fosse messo in ascolto solamente adesso. Le borse chiudono in negativo, FTSE MIB meno 0,73%, FTSE OSHARE meno 0,66%, con tutte le altre borse europee, quella americana in positivo. Parigi guadagna lo 0,6%, Francoforte lo 0,22%, l'America col Dow Jones allo 0,26% e lo 0,28% sullo Standard & Poor's 500. Londra guadagna lo 0,33%. Perché Milano scende? Sempre per chi si fosse messo in ascolto solamente adesso. È successo che la Banca Centrale Europea avrebbe respinto, avrebbe perché non è ancora ufficiale, ma la sostanza e la notizia c'è, tanto che si è riunito il Consiglio di Amministrazione del Monte dei Paschi di Siena, la richiesta di MPS di concedere più tempo per l'aumento di capitale. E infatti Monte dei Paschi chiude con un ribasso del 10,5%. Come abbiamo raccontato nella prima parte, si profila un intervento dello Stato, bisognerà vedere in che forme, cioè che forme prenderà effettivamente. Su questo tema una risposta ad un ascoltatore che mi richiama a un doveroso condizionale, quindi accetto la critica, come è giusto che sia, sul fatto che ci fossero degli investitori pronti per l'aumento di capitale del Monte dei Paschi. Mi dice, ma avete certezze? Abbiamo certezze? No, come sempre nel mondo finanziario su queste vicende è difficile che qualcuno si faccia avanti e dica entro, ci sono io per la ricapitalizzazione del Monte dei Paschi. Nella fattispecie si parlava del Fondo Sovrano del Qatar, il quale Fondo Sovrano del Qatar avrebbe richiesto come precondizione la stabilità politica. In questo senso, e lo ribadisco a chi continua a scriverci, il referendum c'entra, ma solo in parte. C'entra per la sua conseguenza politica, che poi è stata una scelta e una decisione del Presidente del Consiglio di rassegnare le sue dimissioni. Cioè si poteva, avrebbe potuto vincere il no e se Renzi fosse rimasto in sella ci sarebbe stata la stabilità politica e forse le cose sarebbero andate diversamente. Forse, naturalmente, perché non lo sappiamo. Oh. Parliamo di un'altra vicenda che ci trasciniamo da qualche anno, così come il Monte dei Paschi, questa forse da qualche anno in più. non riguarda più così direttamente le nostre tasche, però è comunque è grande tema di questi anni, ossia Alitalia. Alitalia, oggi il summit tra il presidente della compagnia Luca Cordeo di Montezemolo, c'era anche il responsabile finanziario dell'azienda, i rappresentanti delle banche Unicredit e Intesa San Paolo sono i principali creditori della compagnia che naviga di nuovo in pessime acque. Gianni Dragoni del Sole 24 Ore, ciao, buonasera. Ciao, buonasera. Quanto pessime queste acque nelle quali naviga l'Italia? Acque tempestose, perché la perdita aumenta quasi ogni anno. Quest'anno la compagnia dovrebbe perdere almeno 400 milioni, forse di più, non ci sono ancora dati definitivi, ma questi sono i numeri che vengono da fonti autorevoli. L'anno prossimo si prevede una perdita ancora più alta, ma l'anno prossimo era previsto nel piano che ha portato l'ingresso degli arabi di Etihad dall'inizio del 2015 con, diciamo, l'obiettivo del rilancio, era previsto il ritorno all'utile, un piccolo utile di un po' più di 40 milioni. In realtà la perdita l'anno prossimo sarebbe di 500 milioni, forse più. Poi c'è un piano industriale che non ha ancora visto la luce, non sappiamo neanche se e come la vedrà, perché ci sono varie ipotesi, ma tutte piuttosto pesanti. Quindi la compagnia ha un problema anche di cassa, la cassa si sta esaurendo, quindi i pagamenti già le prossime settimane potrebbero essere in forte difficoltà. Sì, addirittura Gianni, secondo alcune fonti, era in esaurimento nel fine settimana la cassa. Sì, di Alitalia. È in esaurimento, secondo i dati interni, la cassa si esaurisce praticamente con questa fine settimana. Cosa succede? Succede che d'inverno, adesso vabbè, c'è un piccolo aumento del traffico nel periodo natalizio, più prenotazioni, quindi forse la cassa qualche giorno può essere positiva, così, però tendenzialmente sarà negativa nelle prossime settimane. Quindi all'Italia avrebbe bisogno di per fine mese, io ho dei calcoli che insomma sono di buona fonte, anche se non sono ufficiali, si troverebbe scoperta come in negativo di cassa tra, secondo del giorno che prendiamo, ma se prendiamo la settimana già prima di Natale, sarebbe già almeno 50 milioni sotto di cassa, quindi non avrebbe cassa per pagare e probabilmente andrebbe anche a meno 100 per fine anno. Questo cosa vuol dire? Che se gli azionisti e le banche, che poi sono anche azionisti, Unicredit e Intesa, non si mettono d'accordo per fare delle iniezioni di cassa, dare fidi bancari o mettere dei soldi, ad esempio con un aumento di capitale, anche se per ora questo è stato escluso, l'Italia certi pagamenti non li potrebbe fare. Tra questi pagamenti ci sono gli stipendi, ci sono il carburante, ci sono gli aeroporti, insomma pagamenti necessari per il funzionamento della compagnia. Della compagnia stessa. Tra l'altro si diceva, Gianni, che il socio forte Etihad non può partecipare molto limitatamente ad un aumento di capitale, non può salire sopra il 50%, no? È così, Etihad ha il 49% e secondo le norme dell'Unione Europea, le compagnie dell'Unione Europea devono essere, devono avere come maggioranza del capitale, cioè più del 50% più un'azione, in mano a soggetti dell'Unione Europea. Siccome Etihad è degli Emirati Arabi Uniti, se Etihad mettesse, per dire, un euro, magari qualcosa di più, ma un euro, ci dovrebbe essere un soggetto europeo, che può essere italiano ma può anche non essere, di un altro paese, purché dell'Unione Europea, che metta la stessa somma. Se no Etihad si supera il 50%, in base alle norme europee la compagnia non è più da considerare comunitaria e quindi non ha più diritti di volo, cioè quindi sarebbe paralizzata, quindi sarebbe letale. Sì. È chiaro che poi Etihad anche non vuole essere l'unica che si sacrifica a mettere i soldi, però c'è anche questo vincolo di tipo legale insuperabile. Insuperabile. Ascolta Gianni, fin qui abbiamo parlato della condizione finanziaria e di credito di Alitalia. È chiaramente la conseguenza di una questione industriale che c'è sotto, e cioè che le cose non vanno molto semplicemente. Quali sono i problemi, se dovessimo schematizzare quali sono i problemi di Alitalia? Uno dei problemi che si è aggravato negli ultimi anni è stato quello di un aumento della presenza della pressione, ma avvenuto in base semplicemente a un gioco di mercato, delle compagnie a tariffe più basse, le low cost, che non sono solo le due più famose, Ryanair e EasyJet, che comunque sono le più forti in Italia, ma ce ne sono anche altre, da Vueling e poi ancora tante altre, che quindi aumenta la loro concorrenza e all'Italia quantomeno perde quote di traffico e poi perde soldi, perché per cercare di non riesce a incassare tariffe remunerative. La sovrapposizione delle rotte nel medio raggio, cioè medio raggio che si intende fino a 3 ore, tra l'Italia e per esempio Ryanair è superiore ampiamente al 50%, cioè questo vuol dire che più del 50% delle rotte, esclusi i voli intercontinentali che fa l'Italia, ha come concorrente c'è anche Ryanair. Uno, se sente un dato del genere, impallidisce, perché capisce che non, certo. Chiaramente c'è una differenza, ci può essere una differenza, però molti consumatori preferiscono la tariffa comunque più bassa, e comunque questo fa sì che quindi ci sia anche all'Italia riduca, per cercare di fare delle offerte, di ridurre delle tariffe che comunque restano più alte, Ryanair comunque fa degli utili, no? Fa degli utili, certo, più di un miliardo di utili, quindi fa degli utili che sono più del doppio delle perdite dell'Italia. Ma comunque, a parte questo, l'altra cosa io credo che sia che a forza di piani di ristrutturazione che si sono susseguiti, si è perso anche quello che è un disegno industriale, un tutto si tiene, cioè nel trasporto aereo o hai un modello di collegamenti come hanno queste compagnie, diciamo solo del medio raggio, oppure le compagnie, diciamo invece come è ancora l'Italia, anche se è molto diminuita la dimensione, in cui c'è medio raggio e lungo raggio. Il medio raggio dovrebbe anche portare passeggeri, alimentare, si chiama feeder raggio, i grandi aeroporti, i cosiddetti hub, come Fiumicino, in misura minore, perché ha molti meno voli intercontinentali in Malpensa. E questo l'Italia non ha sufficienti destinazioni intercontinentali, perché non ha una flotta sufficiente, perché non ha i soldi sufficienti per investire, per attivare una rete che porti molti passeggeri. Quindi alla fine, nel breve medio raggio, concorrenza delle low cost. Nel lungo raggio, lei ha poche destinazioni rispetto a quello che può essere Lufthansa, la stessa Air France, KLM, British Airways, Iberia e così via, e quindi i passeggeri che non trovano le sufficienti destinazioni vanno con ovviamente, altri. Ovviamente su altre compagnie. Io ti ringrazio, grazie a Gianni Dragoni del Sole 24 Ore per questi chiarimenti, il traffico con un po' di ritardo, e poi dai cieli ci spostiamo a terra, ci spostiamo a parlare di auto. Stazioni di servizio Costantin. Se ti fermi, ti conviene. Vi presenta Focus Economia. Andiamo a parlare del settore auto adesso, sulla base di una notizia che ci ha incuriosito. Come già si diceva in apertura, la cosa l'aveva fatta subodorare Sergio Marchionne, ma poi la conferma è sostanzialmente arrivata oggi, o almeno, insomma, stando a quello che dice il Detroit News. Il gruppo Fiat Chrysler ha scelto il Consumer Electronics Show di Las Vegas, che è la più grande fiera dell'elettronica, appunto, per consumatori del mondo, per presentare la sua nuova auto, invece del salone di Detroit che inizia 5 giorni dopo, ed è un salone dedicato alle auto. Gianprimo Quagliano, direttore del Centro Studi Promotor. Gianprimo, buonasera, ciao. Ciao Simone. Eccoci qua. Allora, è un segnale interessante, perché dimostra effettivamente come il focus di tutto il settore auto si stia spostando da altre parti. Lo dicevo già in apertura, vi basta ascoltare o vedere le pubblicità delle auto, dove ormai un quarto è dedicato alla velocità, alla potenza e via dicendo, e gli altri 3/4 sono ormai tutti sulla connessione, sui sistemi di guida automatica o semiautomatica e via dicendo. Sì, è proprio così. Il segnale è molto interessante, e fra l'altro non è una novità, perché già questo salone della tecnologia, il CES di Los Angeles, di Las Vegas, già altre case automobilistiche hanno presentato modelli particolarmente innovativi, come la Chevrolet Bolt l'anno scorso, poi Nissan quest'anno presenta la sua mobilità intelligente, e questa notizia che il gruppo FCA, che tutti sentiamo un po' come molto anche come italiano, presenta una novità che non viene svelata a questo salone, vuol dire che è una novità di grande contenuto tecnologico, dove la tecnologia fa premio in sostanza sulle qualità automobilistiche, anche se è un'automobile ovviamente. E questo si inserisce proprio in quella tendenza che è in atto, in quel processo, in quella rivoluzione che è in atto, che dovrebbe portare negli anni 20 alla diffusione dell'auto a guida autonoma. Sì, più di questo è difficile trovare. Sì, più dell'auto autonoma. Insomma, dopo quello naturalmente siamo all'auto di Bond, quella che mette le ali e poi passi sopra il traffico. Dovrebbe essere tra l'altro la Chrysler Pacifica, che è la monovolume di Fiat Chrysler, è fatta in collaborazione con Google, no? Così si dice. Potrebbe essere, però non è certo, anche perché poi la collaborazione con Google non è una collaborazione in esclusiva, quindi può essere, può anche non essere, insomma. Potrebbe essere quella, come potrebbe non essere. È comunque, ripetiamo, uno snodo interessante dal punto di vista tecnologico, perché rappresenta, se vogliamo, per certi aspetti un cambio di passo. Ci siamo abituati a vedere presentare i nuovi modelli proprio a Detroit, invece si arriva a Las Vegas. Gianprimo Giacchetti, ho qua, sono arrivati i dati sulle immatricolazioni di novembre 2016, che sono di nuovo dei dati positivi, un più 8,19% per l'Italia. Sì, è un più 8,19% che viene dopo un più quasi 10 di ottobre, e crescita a due cifre in tutti i mesi precedenti. Quindi il mercato dell'auto sta andando decisamente bene in questo 2016, chiuderà con un volume di immatricolazioni intorno a 1.830.000, livello che nessuno aveva previsto, e devo dire neppure noi del Centro Studi Promotor, perché avevamo tutti stimato meno. E ci sono, questo è il senso delle previsioni che noi abbiamo presentato in apertura del Motor Show di Bologna, che si sta svolgendo in questi giorni, ci sono tutte le condizioni perché questa crescita continui anche nei prossimi anni. Non più con un tasso, almeno secondo noi, elevato come quello del 2016 e del 2015, ma comunque con un tasso importante, che porterà, a nostro avviso, le immatricolazioni a superare la fatidica soglia dei 2 milioni in un anno. E noi abbiamo stimato 2 milioni 31 mila per il 2017 e 2 milioni 151 mila per il 2018. E quindi questo segnerà il ritorno del mercato italiano a livelli fisiologici. Ti ringrazio, grazie a Gianprimo Quagliano, direttore del Centro Studi Promotor, per essere stato con noi. Un ascoltatore ci scrive: per quanto riguarda il settore auto, a me sembra che sia stata Tesla ad aver spinto verso un nuovo modo di concepire l'auto, e dal punto di vista dell'alimentazione dell'auto non c'è il minimo dubbio, ossia questa spinta sull'elettrico molto forte, in parte anche dal punto di vista della guida autonoma. Di certo un po' tutta la Silicon Valley si sta muovendo intorno a questi temi, se considerate da quanto tempo la stessa Google sta sperimentando delle auto che si guidano da sole, hanno superato ampiamente il milione di chilometri fatti con tutto sommato un numero molto limitato di incidenti, ecco. Sarà però la cosa interessante, che saranno cose che vedremo non a lunghissimo termine, ma nel medio termine. Chiudiamo qua dunque, grazie a Barbara Bianchi e Mauro Del Corno in assistenza in redazione, Filippo Reggi in regia, un grazie a tutti voi per l'ascolto da Simone Spezia, vi auguro una buona serata, noi ci risentiamo lunedì alle 13 con Effetto Giorno, e invece alle 17 torna Sebastiano Barisoni. A lunedì. Radio 24, libera la voglia di fare.